Questa sera, carissimi, con l'aiuto dell'Immacolata e del Signore, facciamo un passo ulteriore nella storia della salvezza. Voi ricorderete che la volta scorsa abbiamo lasciato il nostro caro popolo di Israele, entrato nella terra promessa, con la morte del condottiero incaricato di introdurlo nella terra promessa, cioè Giosuè. Vi ricordo un pochino di date, stiamo intorno con Giosuè, intorno al 1200 circa avanti Cristo. Dopo Giosuè, quindi al termine del libro del profeta Giosuè, vi ricordavo che c'è stata un'ampia sezione dedicata alla spartizione di tutto il territorio della terra promessa tra le 12 tribù di Israele, esclusa la tribù di Levi, che non aveva territorio in quanto destinata a curare il culto di Dio. Ora, il capitolo seguente è quindi come vive Israele nella terra promessa, il primo periodo, diciamo così, di residenza in questa terra promessa ad Abramo. Ora, è l'età cosiddetta dei giudici. C'è un libro, subito dopo il profeta Giosuè, che è appunto il libro dei giudici, che narra la storia del primo periodo di Israele che vive nella terra promessa. Perché si chiama il libro dei giudici? Perché in questo primo periodo, lo vedremo subito, Dio aveva detto a Israele queste parole: dice, il vostro re sono io. Non serve che ci sia una forma di re umano. Se dovesse servire qualcosa, sono io che mi incaricherò di suscitare delle persone che si prenderanno cura di sbrigare le questioni e le cose principali attenenti al governo del popolo di Israele, il cui re però sono io. Quindi, diciamo, da un punto di vista storico, la prima fase della vita di Israele nella terra promessa è la teocrazia, si dice proprio lo stato puro, quindi non c'era una figura istituzionale propria di governo. Ora, i giudici, ce ne sono alcuni maggiori e alcuni minori, come vedremo, erano delle figure fondamentalmente carismatiche, che significa scelte direttamente da Dio e quasi sempre in circostanze contingenti, drammatiche. Cioè, vedremo che un motivo ricorrente del libro del profeta, del libro dei giudici, vi leggerò qualcosa, però leggendolo integralmente ricorre questa espressione in continuazione, che regolarmente succede questo: c'è un periodo Israele sta tranquillo, sereno, dopodiché comincia a peccare, ricominciò a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Dopo il peccato che succede? Dopo il peccato succede il castigo, Dio li mette in mano di alcuni nemici, Israele grida al Signore salvaci e il Signore salva qualcuno, suscita qualcuno per salvare Israele dai guai, a cominciare dalla prima giudice, Gessa, anzi dai primi giudici minori, poi c'è la prima grande figura di giudice che è una donna, che è Deborah, fino all'ultima grande figura storica che è Sansone, che tutti quanti penso che almeno qualche volta l'avrete sentito nominare. Concluderemo poi l'incontro di oggi con la nascita e l'avvento di Samuele, figura un pochino di raccordo perché è stato l'ultimo, diciamo così, dei giudici, e in un certo senso il primo profeta, anche se in senso largo, non in senso stretto, perché il primo e il più grande profeta, diciamo così, di Israele è da considerare Elia. Ecco, però già Samuele ha cominciato a svolgere alcune attività che sarebbero state poi proprie del profetismo. Con Samuele, ve l'anticipo, Israele commette il primo grande peccato di sfiducia, perché si mette in testa di chiedere un re, e vedremo poi il Signore come risponde a Samuele, che si reca dal Signore e dice: guarda, questi vogliono un re, che cosa devo fare? Questo poi lo vedremo al termine dell'incontro di oggi. Ora, quindi detto questo, possiamo partire con le slides. Allora, la figura che si vede nella slide sulla destra è Gedeone, non si vede tanto bene, con in mano il vello, poi leggeremo qualcosa. Allora, leggiamo subito, per riprendere ciò che vi stavo accennando, capitolo 2, dai versetti 16 e 19, per comprendere un pochettino il clima dell'età dei giudici. Ecco, cominciamo dal versetto 11. Allora, qui c'è prima la narrazione della morte di Giosuè, no? E poi dal versetto 11, vedete, versetto 8, poi Giosuè figlio di Nun morì a 110 anni, fu sepolto, eccetera, eccetera. Ecco, anche tutta quella generazione fu unita ai suoi padri. Dopo di essa ne sorse un'altra, attenti, che non aveva conosciuto il Signore né l'opera che aveva compiuto in favore di Israele. Vi ricorda qualcosa questa espressione, voi avete studiato? Ricordate il libro dell'Esodo? Sorse un faraone che non aveva conosciuto Giuseppe. Quindi dimenticarsi di Dio e delle sue opere è sempre l'origine di tutte quante le nostre sciagure e di tutte quante le nostre disgrazie. Attenzione, perché guardate che in tutte queste cose, anche nella storia sacra, anche in questi libri che sembrano libri un pochino freddi, perché sono comunque narrazioni di eventi storici, a volte se uno li legge di seguito possono diventare anche un pochino noiosi o tediosi, però bisogna sempre saper leggere tra le righe quella che si chiama la teologia della storia, cioè nelle vicende prospere o avverse c'è sempre un messaggio divino da decodificare. Quindi la causa dei mali e degli smarrimenti del popolo di Israele è dimenticare, non conoscere il Signore e aver praticamente dimenticato le opere compiute da Lui in favore del suo popolo. Questo vale anche per ciascuno di noi. Dobbiamo sempre ricordare che la disposizione fondamentale, la disposizione principale che dobbiamo avere nei nostri rapporti con Dio è quella della gratitudine, cioè ricordare tutte le grazie che da Lui abbiamo ricevuto e rendergli grazie in continuazione. Ricordate ogni volta che andiamo a messa, è veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a te Signore Padre Santo, perché anche il fondamento di tutti quanti i nostri obblighi di servire il Signore sono sempre radicati nel fatto che noi da Lui abbiamo ricevuto tutto, quindi tutto è quello, tutto gli dobbiamo in quanto tutto abbiamo ricevuto. Comunque, conseguenza di questa dimenticanza, versetto 11, è che gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono i Baal. State attenti che Baal, allora, Baal in ebraico significa Signore, e ricordatelo perché Baal tormenterà la storia di Israele per molti tempi. Baal erano delle divinità pagane, però dovete sapere che Baal è anche il nome proprio di un demonio tra l'altro abbastanza in alto nella gerarchia dell'inferno, e contro quel demonio si invoca, poi lo vedremo più avanti, il profeta Elia, perché vedremo che Elia combatte e vince una guerra contro 400 profeti di Baal sul Monte Carmelo, e lui da solo a servire il Signore. Quindi servirono i Baal fondamentalmente vuol dire servire il diavolo, quindi fare il contrario di ciò che Dio vuole. Abbandonarono il Signore Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, e seguirono altri dei tra quelli dei popoli circostanti. Si prostrarono davanti a loro e provocarono il Signore. Abbandonarono il Signore e servirono Baal e le Astarti. Queste Astarti sono altre divinità pagane, tra l'altro il cui culto erano culti un pochino osceni, culti orgiastici. Non so se capite, se bisogna discendere in troppi particolari, insomma, no? alcune forme di culto pagano prevedevano, ecco, l'apice nei culti orgiastici, che sono esattamente le stesse cose che accadono durante le messe nere, tale e quali, che l'apice della messa nera è l'orgia, per chi non lo sapesse, orgia con orribili profanazioni all'Eucaristia durante questo lavoro. Cosa antica anche questa. Vedete, allora si accese l'ira del Signore contro Israele e li mise in mano a predatori che li depredarono. Li vendette ai nemici che stavano intorno ed essi non potevano più tenere testa ai nemici. In tutte le loro spedizioni la mano del Signore era per il male contro di loro, come il Signore aveva detto e come il Signore aveva loro giurato. Furono ridotti all'estremo. Aveva detto e aveva giurato, vi ricordate quando stipularono l'alleanza, dice. Io ti benedirò con tutte le cose, eccetera, eccetera, purché tu osservi il patto e i precetti. Vi ricordate Giosuè la volta scorsa? State attenti che se vi rivoltate contro il Signore e trasgredirete, lui diventerà vostro nemico, vi consegnerà nelle mani dei vostri nemici, eccetera, eccetera. No, no, no, no, lo serviremo, non vi preoccupate. Allora il Signore fece sorgere dei giudici che li salvavano dalle mani di quelli che li depredavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandi del Signore, ma essi non fecero così. Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a compassione per i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, seguendo altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro. Non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata. Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e disse: poiché questa nazione ha violato l'alleanza che avevo stabilito con i loro padri e non hanno obbedito alla mia voce, anch'io non scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè lasciò quando morì. Così per mezzo loro metterò alla prova Israele per vedere se custodiranno o no la via del Signore camminando in essa come la custodirono i loro padri. Il Signore lasciò sussistere quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle e non le consegnò nelle mani di Giosuè. Allora, su questo testo che abbiamo letto si potrebbero fare delle catechesi che ci porterebbero avanti tutta la durata dell'incontro biblico e anche oltre. Comunque, la cosa che è importante notare è, come dire, il motivo ricorrente. Quindi, Israele si dimentica di Dio, quindi pecca, quindi Dio lo consegna nelle mani dei nemici, il castigo, per fargli rendere conto, perché fino a quando l'uomo non soffre, consegnato nelle mani dei nemici Israele grida a Dio, Dio usa misericordia, suscita un giudice, appena arriva il giudice, diventano tutti quanti buoni, bravi e tranquilli, appena morto il giudice cominciano a fare peggio di prima. E poi c'è questo piccolo particolare, cioè che Dio non aveva tolto, questo ci faccio subito l'applicazione spirituale, non aveva sbaragliato tutti i nemici di Giosuè, ne aveva lasciato qualcuno in vita. Particolare molto importante in teologia spirituale per capire anche quello che accade nella nostra anima. Ora, i nemici della nostra anima sono i nostri difetti e sono i nostri peccati, i quali senza l'aiuto di Dio non possono essere eliminati semplicemente da noi. Ora vedete che come il Signore non ha distrutto tutti i nemici di Israele, ma li ha lasciati in vita perché li mettessero alla prova e perché li stimolassero un po', ecco, e li per vedere se custodiranno o no la via del Signore, così il Signore ci lascia spesso alcuni nemici dentro di noi, non ce li toglie subito. Ci sono molte anime un po' impazienti che si credono che appena cominciano a fare un piccolo proposito contro un difetto, il giorno dopo se lo tolgono, poi constatano che non se lo tolgono e si inquietano. Ma così non va bene, perché a volte, questo è dottrina sicura di solidi maestri di spirito, Dio non ce lo toglie qualche nostro peccato, qualche nostro difetto, perché quello ci fa da stimolo per vedere se e quanto noi continuiamo a combattere e soprattutto ci mantiene nella Valle Santa dell'umiltà. Perché fino a quando abbiamo dei nemici che ci tormentano, noi siamo in un certo modo costretti a ricorrere al Signore e a chiedergli aiuto perché ci liberi e ci salvi dalle mani dei nemici. E non ci prende la follia prometeica di essere una sorta di Padre Eterno in terra, che non abbiamo più nessun difetto e che così diventiamo palloni ancora più gonfiati di quanto già lo siamo per natura e per posizione. Ecco, questo è bene ricordarli, quindi il Signore vuole che noi combattiamo contro i nostri nemici, ecco. Però mettere i nemici nelle nostre mani è opera sua, e se noi combattiamo e non ci rimette, vuol dire che non è ora che questi nemici siano sbaragliati, che ci fa bene che ci pungolino un po', ci tormentino per farci ricordare chi siamo. Ora, i giudici sono tanti, ci sono alcuni giudici minori, i primi tre sono giudici minori, si trovano nei primi capitoli, sono Otniel, Eud e Samgar. E la prima grande figura di giudice è un giudice donna, Deborah. Non leggiamo questi capitoli, poi insomma, per chi ama le donne, attenzione che Deborah è figura della Madonna, è una delle figure veterotestamentali. Le donne dell'Antico Testamento, siamo nella novena dell'Immacolata, sono quasi tutte figure di Maria. Questa Deborah combatte contro un fantomatico nemico di Israele di nome Sisara. Ecco, la tradizione patristica ha visto chiaramente prefigurato in questa donna che guida le schiere di Israele nella lotta contro questo nemico la leggendaria e perenne battaglia combattuta dalla Madonna contro il diavolo, la Madonna a capo delle schiere del cosiddetto esercito della salvezza, e ovviamente la battaglia si risolve con la vittoria di Deborah e la disfatta di Sisara. Mentre la prima grande figura di giudice, che è quella che vediamo nella slide, è Gedeone. Di Gedeone è bene andare a raccontare, perché è bene andare a leggere insieme, scusate, il racconto della vocazione, perché è molto edificante. Andiamo al capitolo 6. Allora, vedete? Come comincia il capitolo 6, gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore, e il Signore li consegnò nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian si fece pesante contro Israele, per la paura dei madianiti, gli israeliti adattarono per sé gli antri dei monti, le caverne e le cime scoscese. Ogni volta che Israele aveva seminato, i madianiti con i figli di Amalek e i figli d'Oriente venivano contro di lui, si accampavano sul territorio degli israeliti e distruggevano tutti i prodotti della terra, fino alle vicinanze di Gaza, eccetera. Versetto 6. Israele fu ridotto in grande miseria a causa di Madian e gli israeliti gridarono al Signore. Quindi vedete, fanno il male, li mettono nelle mani dei nemici e gridano. Ed è come l'uomo, guardate, questa è una storia ancora vera, l'uomo è un eterno bambino. E pensando un po' al Padre Eterno, che pazienza che c'ha, Padre Eterno che vorrebbe trattarci da persone ad adulte, insomma da suoi figli, è costretto, tra virgolette, ovviamente, a trattarci come bambini. Cioè che se non ti manda qualche sciagura, qualche tormento, qualche sofferenza, qualche contrarietà, se leggete l'imitazione di Cristo, dove abbiamo scritto che nella prosperità facilmente l'uomo si dimentica di Dio, e sembra quasi che per ricordarsi di lui dobbiamo stare sempre tormentati, provati in varie forme e in vari modi, perché altrimenti lo mettiamo nel dimenticatoio. Allora, quando gli israeliti ebbero gridato al Signore a causa di Madian, il Signore mandò loro un profeta. Vedete, le prime figure di profeta sono figure temporanee e carismatiche, che disse: dice il Signore, vedete la prima cosa, sempre si dico, il profeta ricorda anzitutto quello che Dio ha fatto per loro. Dio, dice il Signore Dio di Israele: io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho fatto uscire dalla condizione servile, vi ho strappato dalla mano degli egiziani e dalla mano di quanti vi opprimevano, vi ho scacciati davanti a voi, vi ho dato la loro terra e vi ho detto: io sono il Signore vostro Dio, non venerate gli dei degli Amorrei nella terra dei quali abitate, ma voi non avete ascoltato la mia voce. Quindi vedete, c'è prima un ricordo, cioè, Dio dice: sta attento, ti ho fatto dei grandi benefici, poi ti ho detto non fare queste cose e tu hai fatto esattamente il contrario. È importante seguire questo schema, perché Dio ricorda sempre prima il bene che ha fatto Israele, siccome lo fa anche con noi, per ricordarci che la sua legge, la sua alleanza sono da leggere e da comprendere dentro il bene che Dio ha fatto per noi. E quindi il messaggio nascosto, ma neanche troppo, è che se tu non osservi la legge e l'alleanza di Dio, fai male a te, ti ritrovi in mezzo a un mare di guai. Cosa che è verissima. Ecco. Non mi ricordo in quale circostanza recentemente l'ho ribadito, cioè il peccato ha tre cose: offende Dio, uno, che è la cosa principale, quindi un disprezzo della sua bontà. Però secondo, dopo aver offeso Dio, ci espone, diciamo così, e richiede una retribuzione, come ogni trasgressione. Il nome della giustizia richiede sempre una sanzione, però oltre a questo macchia la nostra anima, quindi ci fa del male a noi e intorno a noi, perché il male è male. È sempre presente che non è che una cosa è male, seguite bene questo ragionamento, non è che una cosa è male perché lo dice Dio, come se il male fosse qualche cosa di arbitrario, no? Dio guarda una cosa e decide che questo è male. Quindi io, da povero mortale, Dio ha deciso che quella cosa è male, devo per forza dirgli di sì e adeguarmi. Non è così. Non è che una cosa è male perché lo dice Dio. Ma Dio dice che una cosa è male perché è male. Non so se avete capito bene, ecco. Dio non fa altro che manifestare attraverso ciò che dice, ciò che è. Quindi se tu ti opponi a Dio, in realtà fai del male a te stesso. Il costitutivo formale, dicono, perdonatemi il parlare un pochino complicato, del peccato, è sempre l'offesa di Dio, che è la cosa principale, come vediamo nell'atto di dolore, molto più perché ho offeso te, perché il peccato è una trasgressione della legge di Dio. Trasgredendo la legge sarebbe come se tu dicessi a Dio: non me ne importa niente quello che dici tu, io sono più intelligente di te, sono più grande di te e posso tranquillamente disattendere a quello che tu vuoi, che è un atto assurdo. Perché un ente contingente, creato e miserabile come noi, osa sfidare, opporsi e mettersi a livello, cioè, di un essere infinito, enorme, eterno, grande e potente quale Dio. Però fatto questo, se fosse solo questo, il problema è che fa male a noi. E poi il Signore, per farcelo capire, come dire, ci suscita dei mali accessori che ci mettono con la bocca nella polvere. Ora, l'angelo del Signore, continuiamo la lettura, venne a scendere sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Joas, a Biezerita. Gedeone, figlio di Joas, batteva il grano nel frattoio presso tra le Madianiti. Vi ricordate, no? Appena arrivavano loro, si seccavano tutti i raccolti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose, attenzione alla risposta, perdona mio Signore, ma se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo il Signore non ci ha fatto forse salire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian. Ed è qui Gedeone l'immagine dell'uomo che ancora non è illuminato dalla fede e che quindi dà agli eventi uno sguardo solamente orizzontale e contingente. Quante volte ne abbiamo detto, ma se il Signore è buono perché ha fatto questo? Ma se il Signore vuole bene perché ha permesso questa cosa? Ma dov'è il Signore in questa situazione? Il Signore ci ha abbandonato. Ecco, allora il Signore si volse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non ti mando forse io? Vedete che il Signore non risponde a queste obiezioni, perché aveva già risposto e ha detto: io sono con te e tu sei lo strumento scelto per tirare fuori Israele dai guai. Vedete, gli rispose. Non so se avete già riconosciuto alcune analogie tra questo racconto di vocazione e quello, per esempio, di un Mosè, se ve lo ricordate, no? È dovuto avanti il ciclo di obiezioni. Perdona mio Signore, ma io come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse, e io sono il più piccolo della casa di mio padre. Altro elemento costante delle scelte di nostro Signore. Ecco. La famiglia più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Ecco, un ottimo motivo per essere oggetto della scelta dell'Altissimo. E come scrive San Paolo nel Nuovo Testamento, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile, disprezzato, e ciò che è nulla per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi davanti a Dio. Ora, Dio lo fa apposta a scegliere degli strumenti piccoli ed inadeguati, perché Lui vuole che si noti sempre che le opere grandi vengono da Lui e non dalle persone. C'è sempre una inadeguatezza tra lo strumento che il Signore sceglie e le opere che compie, sempre. E questo vale anche per noi. Il Signore gli disse, infatti, io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Vedete, c'è sempre questa, io sarò con te, il Signore è con te, io sarò con te, il Signore è con te. Avete capito perché? Quante volte durante la messa sentite dire il Signore sia con voi, il Signore sia con voi, il Signore sia con voi, il Signore sia con voi, il Signore sia con voi? Perché come dice San Paolo sempre nelle sue lettere, dice, se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Il Signore è con noi quando noi siamo suoi amici, quando noi stiamo in grazia di Dio. Allora, però vedete, Gedeone ancora non gli basta, vuole i segni. Gli disse allora, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Intanto non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia offerta da presentarti. E qui c'è la famosa pentola col brodo. Rispose, resterò fino al tuo ritorno. Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un'efa di farina fece vocazze agime, mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. L'angelo di Dio disse, prendi la carne e le focacce agime, posale su questa pietra e versavi il brodo. Egli fece così, allora l'angelo del Signore stese l'estremità del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azime. Dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime e l'angelo del Signore scomparve sui occhi. Questo lo vedremo anche nel ciclo di Elia. Quando scende il fuoco che divora un'offerta sacrificale è segno che Dio ha accettato quell'offerta. E così accade. Infatti Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse, Signore, ho dunque visto l'angelo del Signore faccia a faccia, il Signore gli disse: la pace sia con te, non temere, non morirai, eccetera. Ecco, però poi non gli basta neanche questo, e più avanti, al versetto 36, chiede un altro segno, che è quello che abbiamo visto nella slide, quello del vello di lana. Allora, Gedeone disse a Dio: se tu stai per salvare Israele per mano mia, come hai detto, ecco, io metterò un vello di lana sull'aia. Se ci sarà rugiada soltanto sul vello e tutto il terreno resterà asciutto, io saprò che tu salverai Israele per mia mano. E così avvenne. Ancora non basta. La mattina dopo Gedeone si alzò per tempo, strizzò il velo e ne spremette la rugiada, una coppa piena d'acqua. Gedeone disse a Dio: non adirarti contro di me, parlerò ancora una volta. Lasciami fare la prova con il vello ancora una volta. Resti asciutto soltanto il vello e ci si era rugiada tutto il terreno. Dio fece così quella notte, il vello soltanto restò asciutto e ci fu rugiada su tutto il terreno. Quindi, capite perché Gesù nel Vangelo ogni tanto si inquieta un po' e dice: questa generazione perversa cerca un segno, ma non gli sarà dato altro segno fuorché quello di Giona. Ora, per quanto riguarda questa storia dei segni, noi possiamo e dobbiamo chiedere al Signore in alcune circostanze alcuni segni, anche se non deve trattarsi necessariamente di cose straordinarie nelle cose che noi viviamo, e il Signore le dà alcune cose. Lui dà quei segni che sono necessari per farci comprendere quelli che sono i suoi voleri. Non dobbiamo pensare a dei segni straordinari, però generalmente dei segni lui li dà e dobbiamo imparare a decodificarli. Lui non dà i segni, questa generazione perversa cerca un segno, non gli sarà dato altro segno che il segno di Giona, quando quei segni servono semplicemente a provocare in qualche modo il Signore a fare una inutile manifestazione di potenza oppure a soddisfare una nostra curiosità. In quel caso il Signore i segni non li dà mai. Dà e ha sempre dato i segni che sono necessari o per confermare le sue opere, tutti i segni che ha fatto Gesù per convincere e persuadere le persone che era il figlio di Dio, oppure per confermare i voleri che in qualche modo manifesta sulle singole persone, niente di più e niente di meno. Ecco, la storia di Gedeone, noi ci fermiamo qui, sarà la storia di un grande giudice che distrugge i Madianiti e libera Israele dalle mani dei suoi nemici. Dobbiamo andare rapidamente perché adesso c'è Sansone. La conoscete tutti quanti, spero, la storia di Sansone. Allora, Sansone, non leggiamo tutto quanto, e fu consacrato fin da quando era fanciullo, era un nazireo, quindi consacrato al Signore, e Dio gli aveva dato la grazia di una forza straordinaria che era però custodita in un particolare del suo corpo, che erano le trecce che aveva in testa, le sette trecce. Non vi racconto, perché anche su questo i padri della Chiesa, le sette trecce, le sette virtù, tutte quante le cose, le significazioni simboliche, queste succedono. Sansone, per un certo periodo di tempo, è un grandissimo giudice e libera Israele dalle mani dei suoi nemici. Poi però compare la prima, ma non l'unica volta, il tema delle donne come rovina dell'umanità. Le donne hanno rovinato sicuramente nella Bibbia casi eclatanti. Sansone, il prima, Eva che ha rovinato Adamo e tutto il genere umano. Uno, ecco. La seconda non l'abbiamo vista, era Maria, la moglie di Mosè, che per una stupidaggine che ha fatto, che si era ingelosita, è diventata lebbrosa. Però si è rovinata se stessa. La terza rovina è Dalila. Perché Sansone si innamora di questa filistea e questa lo ammale, comincia a dire: ma che bello che sei, ma che caro che sei, vieni qua, ma dimmi un po', ma da dove viene tutta quanta la tua forza? Ma non lo posso dire a nessuno, io non posso dire a nessuno che la mia forza sta nelle trecce, non lo posso dire a nessuno. Ecco. Alla fine canta e Dalila una bella notte gli taglia le trecce. È che la mattina dopo imprigionano Sansone, la storia è drammatica, andatela a leggere, gli cavano gli occhi e lo costringono a fare il buffone davanti alla corte dei re filistei, il pagliaccio, il clown. c'è questa scena, insomma, di questo mezzo gigante così con gli occhi cavati e ridotto a mezzo cielo, e fa il clown davanti alla corte dei Filistei, fino a quando a un certo punto fa una preghiera al Signore pentito del suo peccato, quindi aver consegnato la sua forza nelle mani di una femminaccia zozzona, ecco, e dice: guarda, dammi per soltanto una volta, ridammi la forza che avevo, in modo tale che possa vendicare i nemici del Signore. E quindi lui stava girando sta macina che avevano messo a girare nella corte del re, pur essendo cieco, chiede di essere un attimo slegato, si appoggia alle colonne, le sente, e dopodiché muore Sansone con tutti i Filistei, con la forza che ci fa crollare le colonne, crolla tutta quanta la legge regale, muore lui e muoiono tutti i Filistei, e Israele viene drammaticamente di nuovo liberato. La storia delle donnacce però non è finita, perché ci sono altre donnacce nel corso della storia di Israele. Una la vedremo, sarà la nemica di Elia, che è Jezabele, altra donnaccia proprio, guardate. E una delle altre donnacce sono quelle che fecero cadere Salomone, l'uomo più sapiente del mondo, che al termine della sua vita però si corruppe, perché si innamorò di alcune donne pagane che gli ubriacarono il cervello, ecco, attraverso le malie da donnacce. Ma poi non è finita, perché stanno le donnacce pure nel Nuovo Testamento. C'è Erodiade e Salomè che hanno sulla coscienza la morte di San Giovanni Battista. E nei tempi nostri c'è mamma Ebbe. Mamma Ebbe. Non conoscete mamma Ebbe? Vabbè. Adesso apriamo il capitolo Samuele. Perché dopo Sansone ci sono una serie di vicende, e arriviamo intorno all'anno 1000 e qualcosa. 1040. Con l'avvento di Samuele. Samuele ha una nascita miracolosa, e se voi andate a vedere la nascita di Samuele, è molto simile alla nascita di San Giovanni Battista. E il cantico della mamma di Samuele, il cantico di Anna, è molto simile, lo vedremo, al Magnificat, molto simile. Quindi andiamo a leggere un attimo, ci sono Anna ed Elcana, siamo al primo, adesso chiaramente prendiamo l'indice, vedete l'indice dei libri biblici, Giosuè e Giudici, poi c'è l'intermezzo di Ruth, e poi ci sono i primi due libri di Samuele, i primi due libri di Re, Cronache, i primi due libri delle Cronache, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, eccetera, eccetera, fino ai due libri dei Maccabei. Siamo entrati adesso nei libri cosiddetti storici. Ruth è un libro, è annoverato tra i tre libri storici, è un libro di transizione, e narrato più che altro a scopo parenetico, che narra. È molto importante che lo leggano tutte quante le nuore che litigano con le suocere, perché è l'unica storia della Bibbia dove la nuora innamorata della suocera, la sovie, la sovviene in tutte le sue necessità, ecco, e la aiuta in tutto e per tutto. Ora, che succede? Ai tempi di Samuele c'era la poligamia, e il papà di Samuele, ovvero Elcana, aveva due mogli. Anche qui non vi sto a raccontare tutte le interpretazioni dei padri su Anna e Peninnà e la moglie buona e la moglie cattiva. Lasciamo perdere, se no facciamo l'alba. Ora, che succede? Che Peninnà aveva figli mentre Anna non ne aveva. Guardate che belle, ecco. Perché questa Peninnà, oltre a c'hai i figli, faceva anche: ah, io c'ho i figli e tu no. Ecco. Quindi, da buona femmina, non donna. Se quest'uomo saliva ogni anno dalla sua città per prostrarsi e sacrificare al Signore degli eserciti a Silo. E poi c'erano due figli di Eli, tutti e due candidati a una brutta fine, Ofni e Fines, sacerdoti del Signore. Venne il giorno in cui Elcana offrì il sacrificio. Ora egli soleva dare alla moglie Peninnaia a tutti i figli e le figlie di lei le loro parti. Ad Anna invece dava una parte speciale, perché egli amava Anna, benché il Signore ne avesse reso sterile il grembo. La sua rivale, per giunta, la affliggeva con durezza a causa della sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Così avveniva ogni anno, mentre saliva alla casa del Signore, quella la mortificava. Allora Anna si metteva a piangere e non voleva mangiare. Il Canà, suo marito, le dice: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli? Anna si alzò dopo aver mangiato e bevuto. In quel momento il sacerdote Eli stava seduto sul suo seggio davanti a uno stibile del Tempio del Signore. Ella aveva l'animo amareggiato e si mise a pregare il Signore piangendo dirottamente. Poi fece questo voto: Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo. Il rasoio non passa sul suo capo vuol dire che era un nazireo consacrato al Signore. Allora, voi dovete pensare che ci sono due forme con cui si manifesta da parte degli uomini la consacrazione al Signore. L'una sono i capelli lunghi, che è osservata per esempio in Oriente. Se voi andate a vedere i monaci orientali, sono tutti capelloni, cioè hanno i capelli lunghi, a ricordo del nazireato, perché nell'Antico Testamento, quando un uomo veniva consacrato al Signore, non passava rasoio sul suo capo, per cui era un capellone. Poi però nel Nuovo Testamento arriva San Paolo, che a un certo punto si rasa a zero, dicono gli Atti degli Apostoli, a causa di un voto che aveva fatto. E per cui in Occidente, nella tradizione ascetica dell'Occidente, un consacrato del Signore porta i capelli corti, molto corti, corti, corti, corti. Allora, chi è che c'ha ragione, l'uno o l'altro? Nessuno dei due, sono due tradizioni differenti, d'accordo? Questo anche per fare qualche piccola curiosità biblica. Quindi, attenzione, perché la storia di Anna è una storia molto significativa, perché chi non c'ha i figli deve fare la stessa cosa. Chi non c'ha i figli deve andare a chiedergli al Signore e promettere che se mi nasce un figlio diventa prete. E se nasce una figlia diventa suora. Basta. Quindi, se il Signore gli dovesse venire voglia, ci stanno tanti casi adempiuti in questo modo. Oppure, io li conosco alcuni, perché alcune, ogni tanto qualcuno gli dà retta a Don Leonardo, mi capitò una volta una persona che non poteva avere figli, non è che non poteva avere figli, ma non c'era nessun motivo per cui non avesse figli. Hanno fatto visite su visite, non c'erano cause, come dire, organiche, biologiche per cui non ci dovessero avere, non gli venivano i figli. Allora io le ho detto, dico: sai che devi fare? Te ne fai un bel santuario mariano e fai un bel voto alla Madonna, chiedi alla Madonna questo figlio e poi prometterai alla Madonna che se ti dà questo figlio farai qualcosa per lei, inventatelo tu, fai quello che ti pare. È tornata l'anno dopo che era incinta. Ah, grazie Leonardo, grazie, dico, che dico, che ti avevo detto? Non è che succede sempre, però se fatto con fede può succedere. Se poi il padre Eterno ha proprio deciso che no, ti tieni che no. E tu che ridi? Allora, mentre ella prolungava la preghiera davanti al Signore, egli stava osservando la sua bocca. Anna pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva. Perciò Eli, sacerdote, la ritenne ubriaca. Le disse Eli: fino a quando rimarrai ubriaca, smaltisci il tuo vino. Anna rispose: No, mio signore, io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né altra bevanda inebriante, ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al Signore. Non considerare la tua schiava una donna perversa, poiché finora mi ha fatto parlare l'eccesso del mio dolore, della mia angoscia, eccetera. Va bene, comunque andiamo a vedere. Al fine dell'anno, versetto 20, allora, il mattino dopo si alzarono e dopo essersi prostrati davanti al Signore tornarono a casa a Rama. Il Canà si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei. Al fine dell'anno Anna concepì e partorì un figlio, lo chiamò Samuele, perché diceva: al Signore l'ho richiesto. Letteralmente Samuele significa l'ho impetrato da Yahweh. Ecco, vedete che poi Anna adempie il voto, versetto 22, e disse al marito: non verrò finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore, poi resterà là per sempre. Quindi questo bambino poi verrà portato davanti al Signore, cioè dal sacerdote Eli. Prima di questo c'è il cantico di Anna, molto bello: il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio, si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. Non c'è santo come il Signore, non c'è roccia come il nostro Dio. Adesso vi leggo, questo potete leggerlo, vedete: il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire, rende povero, arricchisce, abbassa ed esalta. Vi leggo i punti che sono più simili al Magnificat per chi lo conosce: solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un seggio di gloria, eccetera. Questo è il cantico di Anna, molto bello, che nella nuova liturgia delle ore, nel nuovo rito, c'è un cantico in una delle loro liturgie, in qualche lodi del mattino, che è proprio il cantico di Anna. Poi c'è la vocazione di Samuele. Allora, a un certo punto Samuele cresce, lo riportano un attimo al tempio e lui sente la voce di Dio. Andiamo subito al capitolo 3. Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. Allora, qui c'è la famosa, non so se lo conoscete, no? La presenza del Signore era rara in quel giorno, le visioni non erano frequenti. Quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto, i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore. Allora il Signore chiamò Samuele e gli rispose: eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: mi hai chiamato? Eccomi. E gli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Poi lo chiama di nuovo, e la terza volta che va, stavolta Eli comprese, versetto 8, che il Signore chiamava il Signore. Eli disse a Samuele: vattene a dormire, se ti chiamerà dirai: parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Chiaramente il Signore ritorna, lo chiama ancora: Samuele, Samuele, parla perché il tuo servo ti ascolta. Allora il Signore disse a Samuele: io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. In quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla sua casa da cima a fondo. Gli ho annunciato che io faccio giustizia nella casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti. Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata nella colpa della casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte. State attenti con i genitori, Ecco. Allora, nel capitolo precedente, l'abbiamo saltato, si vede che questi figli non obbedivano alla legge di Dio, trasgredivano la legge di Dio, e Eli non interviene. Datelo a leggere per tutto quanto, che non c'è tempo. Eli verrà suonato e castigato di brutto per non aver impedito le trasgressioni commesse dai figli. State attenti quando vi dico alcune cose, stanno scritte nella Bibbia, stanno scritte. Non c'è bisogno che ci siano scritte, però ci stanno scritte. Ok? E la prima cosa che Dio annuncia a Samuele è il castigo di Eli per non aver impedito ai figli, quindi i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti. Right? C'è poi una sezione abbastanza lunga dove si vede l'attività di profeta e di giudice di Samuele, che potete poi andarla a vedere. Infine concludiamo col capitolo 8, che è un capitolo abbastanza drammatico ed emblematico. Andiamo a vedere insieme. Quando Samuele fu vecchio, stabilì i giudici di Israele e i suoi figli. Quindi si chiamavano Gioele e Abia. I figli di lui però non camminavano sulle sue orme, perché deviavano dietro il guadagno, i soldi, accettavano regali e stravolgevano il diritto. Si radunarono allora tutti gli anziani di Israele e vennero da Samuele a Rama. Gli dissero: tu ormai sei vecchio, i tuoi figli non camminano sulle tue orme. Stabilisci quindi per noi un re che sia nostro giudice, come avviene per tutti i popoli. Caso di Israele, non siamo come tutti gli altri. Dobbiamo essere uguali a tutti gli altri. Agli occhi di Samuele la proposta dispiacque, perché avevano detto: dacci un re che sia nostro giudice. Perciò Samuele pregò il Signore. Sentite cosa risponde il Signore. Il Signore disse a Samuele: ascolta la voce del popolo, qualunque cosa ti dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di loro. Come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dei, così stanno facendo a te. Ascolta pure la loro richiesta, però ammoliscini chiaramente e annuncia loro il diritto del re che regnerà su di loro. Ah, Samuele va, che quando poi, quanto lo capisco, sa, Samuele, perché ci sono alcune anime, ecco, che chiedono aiuto, ma poi si mettono in testa di fare di testa loro. E tu non ci puoi mica fare niente, puoi soltanto dirgli: stai attento, che se ti metti a fare così succederà questo, questo, questo, questo, questo e questo. Ma tanto l'esito di questo è: non me ne importa niente, voglio fare così. Ed è quello che fa Israele. Samuele riferì tutte le parole del Signore e disse: questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi. State attenti, prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine, li costringerà a trarre i suoi campi, eccetera. Prenderà anche le vostre figlie per fare le sue profumiere, cuoche e fornaie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli li darà ai suoi ministri. Vedete? È da sempre che i potenti si occupano degli affari loro e dei loro cortigiani, quindi. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri. Vi prenderà i servi, le servi, metterà le decime sulle vostre greggi. Allora griderete a causa del re che avrete voluto reggere, ma il Signore non vi ascolterà. Le lacrime del coccodrillo. Che succede però? Niente. Il popolo rifiutò di ascoltare la voce di Samuele e disse: no, ci sia un re su di noi. Saremo anche noi come tutti i popoli. Il nostro re ci farà da giudice e uscirà dalla nostra testa e combatterà le nostre battaglie. Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e riferì all'orecchio del Signore. Il Signore disse a Samuele: ascoltali, lascia regnare un re su di loro. Samuele disse agli israeliti: ciascuno torna nella sua città. Questo è un capitolo un pochino drammatico. Ci fa comprendere come quando ci impuntiamo su qualcosa, cioè c'è un reale libero arbitrio da parte nostra. Se quel qualcosa è sbagliato, Dio cerca di mandare i mezzi, consono a essere umano per dissuaderti. Ma se tu ti impunti e ti ostini, Dio ti lascia fare. Ti lascia fare, vedremo dalla prossima volta che vedremo Saul e Davide, tutto quello che combina il re Saul. Ne combina tante. Ecco, gli israeliti sarebbero poi morsi le mani di aver chiesto un re, se quel re doveva fare quello che ha fatto Saul. Allora, su questo dobbiamo stare tutti quanti molto attenti, sempre piccolo riferimento esistenziale prima di chiudere, perché abbiamo alcune tentazioni, che è quello di essere come tutti gli altri, quello che fanno tutti, e quindi di conformarci con quello che fanno tutti, anche qualora questo non sia ciò che Dio gradisce. E quando facciamo questo ci sono delle conseguenze. Lascia regnare un re su di loro, ciascuno torni alla sua città. I profeti ci vengono da morire, si rattristano un po', però io vi parlo insomma anche per esperienza, quando uno parte per la tangente di brutto bisogna soltanto sperare che il Signore ci metta le mani, che gli susciti una conversione profonda e che la venga a raccontare. Ecco, però spesso e volentieri non si va a raccontare, perché questo è l'inizio della discesa verso la fine. Con questo abbiamo finito rapidissimamente. Io vi suggerisco sempre di leggere, se potete, insomma, alcuni stralci o alcuni versetti che noi abbiamo tralasciato, appunto per trarne ulteriore edificazione. Ecco, dalla prossima volta cominceremo invece a vedere il tempo della monarchia, quindi da Saul, Davide, Salomone, e poi dopo Salomone, corrotto dietro altre donne di malaffare, comincia un percorso di decadenza, proprio di discesa degli israeliti, che vedremo poi con calma le progressive tappe a cui conduce. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.